Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto. Partiamo sotto il comando di Alessandro Chiappini, il nostro regista, e di Riccardo Silvi, il nostro redattore. E siamo qui negli studi di Roma con Antonio Padellaro. Benvenuto. Grazie. Direttore Padellaro, ospite gradito, sarà la nostra guida oggi per questo cielo provvisorio. Lo abbiamo anche chiamato perché da un blog intitolato Io gioco pulito, partito il 1 aprile 2009, nasce un libro che ha lo stesso titolo, Io gioco pulito. Cos'è, direttore? Un pio desiderio oppure qualcosa che in Italia comunque si riesce ancora a fare? Prima di tutto è una frase che suona bene. Io sono un grande appassionato di calcio, infatti si parla anche di calcio e si dice una cosa che non sempre chi bara ha successo. Può anche capitare che chi ammette lealmente di aver commesso un fallo e magari di aver consegnato un gol in fuorigioco possa avere successo e possa acquistare agli occhi del mondo circostante una certa autorevolezza, un certo prestigio. No, a parte il calcio, il gioco pulito è una frase che noi vorremmo che i nostri uomini politici ci dimostrassero ogni momento. Si limitano qualche volta a declamarla perché abbiamo la sensazione tutti quanti, c'è anche un po' di rassegnazione, che ormai è l'unico modo per giocare, che è l'unico modo possibile per giocare per chi sta nella stanza del potere, quello di giocare un po' barando. Io penso che non sia sempre così, ma il libro è anche la storia di come io, da direttore dell'unità, ho osservato i movimenti di alcuni potenti, appunto riscontrando che non sempre giocavano pulito e che non sempre ha convenuto ad alcuni uomini politici giocare sporco. Sì, con la definizione, diciamo così, uomini della politica, oggi abbiamo, per così dire, un termine onnicomprensivo che serve per tutti. E, diciamo così, in un certo senso sembra anche identificare tutti. Ricordavo qualche giorno fa che ci fu un grande uomo alla sinistra, Enrico Berlinguer, che pose in modo forse il più lucido possibile nella storia di questa Repubblica, convergendo pure verso il meglio di una certa cultura cattolica, la questione morale. Dopo un po' ci siamo ritrovati quello che poi per tanti era il principe dei ladri a Palazzo Chigi. Poi c'è stato così questa riproposizione alla questione morale e magari ci ritroviamo quello che per molti è il principe dei corruttori a Palazzo Chigi. Ma parlare di politica, di gioco pulito, porta male oppure? No, non porta male, che si sono consumate le parole. Purtroppo in questo paese, qui c'è anche una responsabilità dell'opposizione di sinistra, a furia di parlare a vanvera inutilmente di questione morale, quando uno sente la parola questione morale già comincia a pensare a qualcosa di retorico e di vuoto, come per esempio un'altra espressione che nessuno osa più pronunciare, che è conflitto di interessi. Appena uno parla in questo paese oggi di conflitto, che è una cosa importantissima, la gente dice ma piantala, ma va là. Perché? Perché sono tutte questioni centrali nella vita civile di un paese, che però a furia di essere pronunciate senza costrutto, senza che si arrivasse a una realizzazione anche parziale, hanno perso di qualsiasi significato e nessuno infatti le usa più. Parlare oggi di questione morale significa farsi guardare male. Però in realtà, diciamo così, si ha un po' l'impressione, girando, che è difficile anche, se uno dovesse esprimere l'ipotetico esercizio di spiegare quest'Italia a un amico straniero, sì, oggi come oggi, a parte le solite domande sui veri poteri italiani, per cui le domande di rito sull'Ndrangheta, la mafia, la camorra, sui poteri forti o su la Chiesa, se è a destra o a sinistra, insomma, le domande un po' che fanno un po' le macchiette. Poi, quando si va nel nocciolo del problema, Si parla di cinema italiano e andiamo sempre a parlare di 50 anni fa. Si parla di arte italiana e andiamo a parlare sempre di 50 anni fa. Un paese così bloccato, come fa a riprendere a giocare? Chi le deve scrivere queste regole? Ma ho l'impressione che le regole non debbano essere scritte, sono state già scritte. Pensiamo alla Costituzione italiana, anche qui sembra di parlare di chissà che, di che cosa, insomma. La Costituzione italiana già prevede come una società democratica debba essere regolata. Cioè, la prima parte della Costituzione è esemplare, basterebbe rileggersela e vediamo che non c'è bisogno poi di tante altre leggi. Il problema è che sono tutte regole, norme che sono rimaste in parte inattuate e che vengono considerate un ostacolo al felice svolgimento degli affari politici e di altro genere in questo paese. Pensa semplicemente a un'altra questione che fa sbadigliare, no? L'evasione fiscale, la lotta all'evasione fiscale. Cioè, io ho una certa età, avevo i pantaloni corti quando sentivo dire occorre una lotta vigorosa all'evasione fiscale. Perché? Perché l'evasione fiscale è una zavorra spaventosa sui costi del paese e anche una profonda ingiustizia, perché crea due categorie: quelli che pagano le tasse perché gli vengono tolte dalla busta paga e quelli invece che bellamente se ne fregano. Ma se un paese non fa qualcosa per combattere l'evasione fiscale, alla fine uno dei principi della Costituzione italiana resta non solo inattuato, ma viene svillaneggiato. Cioè, questa è la responsabilità della classe dirigente, e aver lasciato che alcune regole, ma non che riguardano la destra o la sinistra, ma che riguardano tutti quanti, no? Le regole comuni di convivenza civile, siano rimaste così, senza una loro realizzazione. Sì, ma infatti, diciamo così, forse mi illudo comunque, siccome mi è dato anche di girare spesso e volentieri laddove la gente si muove e vive, insomma, non ho la macchina, uso mezzi pubblici, quindi potrei fare un trattatello sulle ferrovie italiane, nonostante le chiacchiere, insomma, una regressione culturale e tecnica di circa 40 anni, nessuno urla sulla pelle di tutti i pendolari e nessuno è abilitato politicamente a dire ma che cos'è questo schifo. Però per esempio io vedo nei mercati gli ambulanti arabi che occupano i posti che fino a 10 anni fa detenuti da italiani, cioè vedo l'intersezione così di una legge di accoglienza fatta in nome del popolo sovrano, che è ben diversa da quella che ci raccontiamo in Parlamento. Poi in realtà cosa vincerà? Se uno dovesse fare la statistica dei bambini che stanno nascendo dai matrimoni misti in Italia, c'è una legge di accoglienza che è ben diversa, cioè filosoficamente, moralmente motivata da ben altre regole da quelle che vengono sbandierate, e nessuno se ne accorge. Poi quando sarà il momento che il popolo avrà il diritto di essere riconosciuto da coloro che lo devono rappresentare, poi un altro problema. Non so se, a proposito di questo tema, non so se hai notato che insieme alle cosiddette camere ad ore degli alberghetti malfamati ci sono anche le parole ad ore, cioè ci sono delle parole che vengono pronunciate soltanto in un certo lasso di tempo. Non so se ti ricordi della parola respingimenti, sì, di cui i politici si sono riempiti la bocca fino a qualche giorno fa, perché c'erano le elezioni e bisognava, cioè, c'è stata una rissa furibonda sui respingimenti di quei poveri disgraziati che arrivano all'isola di Lampedusa nei loro barconi. Maroni e i leghisti che hanno fatto del respingimento la loro bandiera, eccetera. Allora, improvvisamente del respingimento non parla più nessuno, perché non è più funzionale a queste miserevoli campagne elettorali. Eppure continuano ad arrivare, probabilmente non li respinge nessuno, perché il problema, certo che ci sono delle c'è una bella differenza da ricacciare in mare dei disgraziati e accoglierli. Però il problema è che questa questione dura soltanto lo spazio necessario per fare un po' di casino sui giornali o farsi un po' di autopropaganda. Dopodiché viene abbandonata e verrà ripresa alle prossime elezioni. Beh, però lì facciamo anche un pochettino un po' di autocritica, perché aver trasformato Lampedusa anche in un fenomeno mediatico, perché le telecamere, giusto che ci fossero, dovevano esserci, ci sono state, però in tutti questi anni non abbiamo mica detto che i veri clandestini non arrivano con i barconi in disarmo, i veri clandestini arrivano con gli aerei, con tanti visti turistici, e magari vengono con i soldi di varie mafie per fare... Certamente. Per fare, diciamo, sì, i veri problemi. Ma quelli sono clandestini di serie A. I veri problemi non sono come, tra l'altro, non aver capito il perché Gheddafi veniva con il discendente di Muqtar, di Al-Muqtar, cioè il capo della confraternita degli Senussi, che sono, tra parentesi, coloro che sulla frontiera del Darfur hanno diviso l'Islam in un Islam molto aggressivo, sì, contro gli altri, che avevano un Islam un po', diciamo così, un po' legato alle religioni tradizionali, e che è frutto di un progetto espansionistico che dura il XVIII secolo. Quindi poi in realtà essere sbarcato con il profeta di questo Islam, che cosa ha portato agli occhi, e che tutti i giornali arabi abbiano scritto, i musulmani abbiano scritto, bisogna imitare Gheddafi che va con... Noi abbiamo invece semplicemente detto, non è venuto a fare affari. Forse tra 10 anni sapremo quale problema sociale e politico ci ha portato. Il non saper leggere queste cose... Però mi sa che ad un certo punto, poco fa, prima di iniziare, avevamo detto che le cose bisogna guardarle anche con una certa ironia. Sì. E alla fine di questa prima parte cosa consegniamo come massima ai nostri ascoltatori? Beh, no, la massima che mi viene in mente alla luce di eventi che ci accompagnano in questi giorni e ci sollazzano è questa, e non dirò chi la pronuncia perché è un quiz. Cara, non è come pensi, questo è un complotto della sinistra. E questo è Antonio Padellaro, la nostra guida questa settimana. Di Antonio Padellaro trovate in libreria, non riesco a vedere perché ho la foto, l'editore. Baldini, Castoldi e Dalai. Baldini, e il libro Io gioco pulito, è in libreria, è un libro corale che nasce da un'esperienza corale, un blog aperto nell'aprile 2009, ed è così un modo di guardare l'Italia come... Antonio Padaro ci ha fatto appena comprendere, anche con gli occhi dell'ironia. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E di Antonio Padellaro, giornalista italiano, autore di Io gioco pulito, un libro in libreria, appena uscito in libreria, per Baldini, Castoldi e Dalai. Bisogna aggiungere anche il terzo nome. Giocare pulito significa rispettare gli impegni presi, non scaricare su altri la colpa dei propri errori. Non giochi pulito se il giorno dopo ti dimentichi dei tuoi lettori, se ti metti d'accordo sotto banco con i tuoi avversari del giorno prima. Questo era anche un po' il senso di quello che abbiamo detto nella prima parte, visto che siamo entrati anche in una logica, questa è un po' più pessimistica. Sì. Diamo la massima per questa parte. Ma nel libro, a un certo punto, parlando della politica, di questa politica e soprattutto dei sultani, ho trovato questa citazione che adesso la riporto a memoria. Trovo imperdonabile che qualcuno costringa qualcun altro a vergognarsi di se stesso. Io trovo che questa frase si attagli bene a un fenomeno che io trovo impressionante. Per carità, i cortigiani appartengono ad ogni regime, anche più illuminati. Ma ci sono dei cortigiani che non sembrano costretti a umiliarsi, eppure lo fanno con una certa voluttà. Io trovo che il fenomeno di cui parliamo, l'uomo politico di cui parliamo, che ovviamente Berlusconi, possa essere giudicato in mille modi. Io non lo demonizzo, penso che Berlusconi rappresenti qualcosa di molto serio, di molto importante, anche di molto negativo, ma insomma non è stato un incidente della storia. Quello che è comunque la sua parabola politica imprenditoriale, per forza di cose a un certo punto conoscerà una fine. Quello che io trovo preoccupante è che i segni di questo suo modo di esercitare il potere continueranno. Giorni fa, per fare un esempio, durante una trasmissione che si chiama Anno Zero, condotta da Michele Santoro, una ragazza che era stata reclutata, arruolata, no, seriamente per essere candidata alle elezioni europee, diceva: ma cosa c'è di male se Berlusconi si circonda di persone giovani anche dall'aspetto leggiadro? E non rendendosi conto che questo è il punto, cioè che in questo paese, dove la parola meritocrazia, altra parola usata a sproposito, non ha più cittadinanza, molti ragazzi, forse un po' sprovveduti, possono essere indotti a pensare che soltanto se fai parte di quella corte potrai avere delle possibilità di trovare un lavoro o di avere successo nella vita. Tra l'altro Berlusconi, che è un uomo che non dice, che rivela sempre i suoi pensieri più intimi, anche se spesso non sono i migliori. Una volta disse a una ragazza durante una conferenza stampa, a proposito del lavoro femminile: ma no, ma lei si trovi un marito ricco, è una famosa frase, no, e avrà risolto i suoi problemi. Cioè questa idea, no, che poi se sei carina, se trovi un marito che coi soldi, e se si riesce ad arrangiarti, poi alla fine ce la fai. Questa io la trovo un'idea del mondo, della vita, della pessima. Ma questo non è legato al fatto che ormai sono due generazioni di italiani che vengono sacrificati perché ci siamo fatti tutti quanti piacere? Adesso magari cito il nome del professor Biagi con molto rispetto, però la cosiddetta legge Biagi. Sì. Ce la siamo fatti tutti piacere, poi in realtà sono due generazioni di italiani che sono stati sacrificati per salvare una generazione di 50-60 anni ultraprotetti. A queste due generazioni chi ha fatto formazione? Cioè, nella riforma scolastica Gelmini è stato introdotto, e nessuno lo ha notato, il liceo musicale coreutico, cioè praticamente Amici, che da format televisivo diventa modulo formativo in Italia, cioè... E chi fa formazione per i giovani in Italia oggi? Non so, ma io trovo, per esempio, molto significativo, non trovo un altro termine, che si continuano a sfornare giovani laureati in scienza delle comunicazioni, e che questi giovani pensino che una volta laureati in scienza delle comunicazioni parliamo del nostro mestiere, diventino giornalisti. Allora io sto mettendo in piedi insieme ad altri un giornale che dovrebbe uscire a settembre, anzi che uscirà a settembre, e si chiamerà proprio il fatto quotidiano. Allora io sono contento di ricevere molti curriculum, ma sono impressionato dal numero. Io ho ricevuto in poche settimane 160 richieste di assunzione per un piccolissimo giornale che non ha certamente le possibilità neanche di accontentare un decimo. E vedi, io ho letto tutti i curriculum che ricevo, perché sto cercando dei ruoli specifici, e vedi nell'80% dei casi degli eccellenti studi, conoscenza, io penso vera, di lingue straniere, esperienze, pubblicazioni. Trovo che ci sia una una qualità nel percorso scolastico e post-scolastico di questi ragazzi, che si propongono giustamente per la professione che amano. E sappiamo perfettamente che non solo, adesso non sto parlando del mio piccolo progetto, ma probabilmente a settembre il mondo del giornalismo italiano avrà qualche problema, perché sappiamo che i grossi gruppi editoriali stanno cercando di tagliare qua e là. E di questi ragazzi, a questi ragazzi cosa gli raccontiamo? Io non lo so, non so, io sono contro gli sbarramenti iniziali, no? Però continuare a moltiplicare la laurea, i laureati in scienze delle comunicazioni, continuare a fare in modo che le scuole di giornalismo aumentino, non so se è la scelta più giusta. Bisognerebbe forse fare un discorso da parte degli organi responsabili molto serio e molto schietto. Ragazzi, guardate, questo è un mestiere purtroppo che non offre in questo momento grandi prospettive. Ma chi lo fa questo discorso? Sì, ma mi ricordo che a metà anni 80, quando ho iniziato a scrivere io sui giornali, chi diventava praticante aveva il posto, e quindi anche i disoccupati erano gli sfortunati dei giornali che avevano incidenti, ma erano pochissimi, qualche centinaio in Italia, massimo 1000, insomma, su circa 18.000 giornalisti. Adesso gli occupati sono, che so, 20.000 sottopagati, e i disoccupati sono praticamente il 90% di quelli che sono stati diplomati, laureati giornalisti e poi ammessi all'esame da professionista. Cioè un diploma di... sono decine di migliaia questi ragazzi. Ripeto, di qualità, eh? Di qualità, sì, bravissimi anche... Bah, onestà, lealtà, competenza, generosità, rispetto per gli altri. Io gioco pulito, Antonio Padellaro, Baldini, Castoldi e Dalai, in libreria. Grazie direttore. Grazie veramente. Grazie Riccardo, grazie Alessandro e grazie a tutti voi, a risentirci.